Se uno rimanda la sua donna, ed essa si allontana da lui, e diviene donna di un altro, tornerà egli forse ancora da lei? Non sarà forse del tutto profanata quella terra? Ora tu hai fornicato con molti amici e vuoi ritornare a me? Oracolo del Signore, alza i tuoi occhi verso le alture e considera dove non ti sei prostituita. Presso le strade ti sei seduta per essi come un arabo nel deserto. Così hai profanato il paese con le tue prostituzioni e le tue malvagità. Per questo sono state impedite le piogge e l'acqua primaverile è mancata. Tu hai avuto una fronte da prostituta, hai rifiutato di arrossire. Forse che fin d'ora non gridi verso di me, padre mio, amico della mia giovinezza sei tu. Conserverà forse l'ira in perpetuo, la manterrà per sempre. Così tu parli, ma commetti malvagità quando puoi. Al tempo del re Giosia, il Signore mi disse: hai tu veduto ciò che ha fatto la ribelle Israele? Se n'è andata su per ogni montagna alta, sotto qualsiasi albero verdeggiante, e vi si è prostituita. E pensavo: dopo che avrà compiuto tutte queste cose, ritornerà a me. Ma non è tornata, e la perfida sua sorella Giuda ha visto. Oppure ho osservato che, sebbene io avessi scacciato la ribelle Israele a motivo di tutti i suoi adulteri e le avessi dato il libello del suo ripudio, tuttavia la perfida Giuda, sua sorella, non ha avuto timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Ed è avvenuto che per la sua facile prostituzione ha profanato il paese, perché si è prostituita con la pietra e con il legno. Nonostante tutto ciò, non ha poi fatto ritorno a me, la perfida sua sorella Giuda, con tutto il suo cuore, bensì con inganno. Oracolo del Signore. Poi il Signore mi disse: la ribelle Israele è più giusta della perfida Giuda. Va e grida queste cose verso settentrione. Io dissi: ritorna, ribelle Israele, oracolo del Signore. Non rivolterò la mia faccia da voi, perché io sono pietoso. Oracolo del Signore, non conservo sdegno in perpetuo. Solo riconosci la tua iniquità, perché contro il Signore tuo Dio ti sei ribellata. Tu hai vagabondato con gli stranieri sotto ogni albero verdeggiante, senza aver ascoltato la mia voce. Oracolo del Signore. Ritornate, o figli traviati, oracolo del Signore, poiché io sono vostro padrone, e vi prenderò uno per città e due per famiglia, e vi condurrò in Sion. Io vi darò pastori secondo il cuor mio, e vi pascoleranno coscienza e senno. Ed avverrà in quei giorni, quando vi sarete moltiplicati e sarete fecondi nel paese, oracolo del Signore, non si dirà più arca del patto del Signore, perché non verrà più in mente, non se ne avrà ricordo, non si ricercherà e non si rifarà più. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore. E si aduneranno tutte le nazioni in essa, nel nome del Signore in Gerusalemme, e non cammineranno più dietro la caparbietà del loro cuore malvagio. In quei giorni si unirà la casa di Giuda alla casa di Israele, ed insieme verranno dal paese di settentrione verso il paese che ho dato in eredità ai vostri padri. Intanto io pensavo: come vorrei collocarti tra i figli e darti una terra deliziosa, una eredità splendida tra gloriose nazioni. Ed intanto pensavo: tu mi chiameresti padre mio e non t'allontaneresti più da me. Invece, come donna perfida verso il suo amico, così siete stati perfidi verso di me, o casa di Israele. Oracolo del Signore. Una voce sui colli si ode: pianto, gemiti dei figli di Israele, perché han pervertito la loro via, han dimenticato il Signore loro Dio. Tornate, figli traviati, io curerò i vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo a te, perché tu sei il Signore nostro Dio. Sì, illusione sono le colline e il tumulto dei monti. Sì, nel Signore Dio nostro è la salvezza di Israele. L'onta ha divorato il provento dei padri nostri fin dalla nostra giovinezza. Le loro greggi e i loro armenti, i loro figli e le loro figlie. Corichiamoci nella nostra vergogna, ci ricopra la nostra ignominia, perché contro il Signore Dio nostro abbiamo peccato noi e i nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi, e non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro.